92. Paste alla cacciatora. Così chiamano in Toscana una minestra di paste asciutte, nocette, paternostri, penne e simili, condite con la carne delle arzavole. Le arzavole sono uccelli di padule, dal piede palmato, dal becco a spatola, somigliantissimi alle anatre, se non che sono più piccole, da pesare in natura grammi 250 a 300. Due di queste sono sufficienti per condire una minestra di grammi 400 di pasta da bastare per 4 persone. Gettate via la testa, le zampe, la stizza e gli intestini per farle bollire con un mazzetto guarnito di sedano, carota e gambe di prezzemolo in tanta acqua salata che basti per cuocervi la minestra. Cotte che siano, disossatele e tritatele con la lunetta insieme coi fegatini e i ventrigli vuotati che avrete cotti con le arzavole. Cotta la pasta nel detto brodo, scolatela bene e conditela a suoli con questa carne tritata, burro e parmigiano a buona misura. Riesce una minestra gustosa e ciò che più conta di non difficile digestione.